velocite, velocite, cuore sgurezza, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, velocite, sempre.